Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, bentornati alla nostra rassegna stampa europea. E cerchiamo come tutte le settimane un po' qualche spunto dai giornali europei, ma cercheremo soprattutto in futuro, visto che abbiamo appena iniziato, di trovare spunti non soltanto dalla stampa che quasi sempre consultiamo, cioè quella dei paesi più vicini e delle lingue che ci sono più familiari, ma anche appunto magari uno sguardo, non so, per esempio dalla Polonia, che è sicuramente uno dei paesi più importanti di questa Europa, di questa Unione Europea che negli ultimi anni si è così allargata. Ma partirei da una ferita dell'Europa che piano piano si sta remarginando, forse, speriamo, ed è la ferita dei Balcani. È interessante da questo punto di vista l'articolo apparso sull'Economist che parla dell'intesa raggiunta tra Pristina e Belgrado, cioè tra Serbia e Kosovo, sull'estato dell'ex provincia serba che apre la strada dell'Unione Europea ai due paesi balcanici. Sapete che appunto noi siamo già, secondo alcuni, fin troppo grandi, questa Europa a 27, però ci sono altri paesi che potrebbero entrare. E scrive, vi leggo un piccolo pezzo dell'articolo dell'Economist: Habemus Pactum, ha twittato Vlora Citacu, il ministro kosovaro dell'integrazione europea, il 19 aprile scorso. Dopo 10 snervanti tornate di negoziati a Bratislava, la Serbia e il Kosovo hanno raggiunto un accordo sotto la supervisione di Catherine Ashton, responsabile della politica estera dell'Unione Europea. L'accordo costituisce un enorme passo avanti per i due paesi e per tutti i Balcani, nonché un trionfo personale per Ashton e il suo team. Tante volte si critica l'Unione Europea perché tra i suoi molti difetti ci sarebbe quello di non avere una politica estera, oltre che, ne abbiamo parlato due settimane fa, una politica monetaria unitaria. Ecco, in questo caso, scrive l'Economist, Catherine Ashton ha dimostrato invece che con l'impegno anche snervante, appunto, costituito da così tanti negoziati, invece si può a volte dare un contributo serio a migliorare le relazioni politiche dei nostri vicini in questo caso, ma in futuro magari anche quando i problemi sono più lontani. Pensiamo per esempio ai problemi dell'Africa, dove comunque i paesi dell'Unione Europea hanno tantissimi interessi. E passiamo a un articolo che invece riguarda l'impegno del Parlamento Europeo. Questo è un articolo che ho trovato molto bello perché è apparso sull'Huffington Post UK. Sapete, l'Huffington Post è questo sito di notizie considerato da tutti un modello un po' per i siti di notizie, o meglio, per i giornali online, che quindi sono solo online, perciò li possiamo chiamare siti di notizie o giornali puramente online, puramente su internet. C'è anche una versione italiana, come sapete, diretta da Lucia Annunziata. Questo però è l'Huffington Post UK, che ha deciso, con il grande vantaggio che dà internet, di avere tutto lo spazio del mondo, perché a volte noi sui giornali di carta abbiamo questo problema che non riusciamo a scrivere tutto quello che vogliamo, a dare tutte le informazioni grafiche e fotografiche che vogliamo, perché lo spazio è appunto limitato. Invece su internet si può mettere molto di più. Questo articolo della Huffington Post parla di questa lost generation, la generazione perduta, perché c'è questo problema comune a molti paesi dell'Unione Europea. Proprio qualche giorno fa sono usciti gli ultimi dati allarmanti dalla Spagna della disoccupazione giovanile. E questo, l'Huffington Post, appunto, vi ho detto la versione UK, perché nel Regno Unito appunto la disoccupazione giovanile ha raggiunto il milione di persone, che è tantissimo. Nel complesso dell'Unione Europea, scrive l'Huffington Post, ci sono 23 milioni di persone senza un lavoro, 2,6 milioni di questi sono nell'Unione Europea, ma anche nel caso dei nostri vicini d'oltremanica, della Gran Bretagna, il problema è particolarmente drammatico tra i giovani, che vengono considerati, cioè tutti coloro che hanno meno di 25 anni. Chiaro che sottolinea anche l'Huffington Post e l'ha detto lo stesso Parlamento, è un indice molto difficile da calcolare, perché bisogna contare che spesso chi ha meno di 25 anni magari sta ancora studiando, però comunque il tasso di disoccupazione, appunto, e soprattutto le prospettive di queste persone giovani che magari non hanno particolari strumenti di istruzione, le prospettive sono appunto pessimistiche. Il paese che è messo peggio, sottolinea l'Huffington Post, è la Grecia, con un tasso di disoccupazione tra i giovani che è del 57%, che è come dire che due persone su tre tra i giovani sono senza un lavoro. Il Parlamento europeo ha, sapete che il Parlamento europeo, questa istituzione è un po' strana, perché è un Parlamento che legifera, sì, però non legifera nello stesso modo in cui fanno i parlamenti nazionali, cioè propone delle leggi, ma poi diciamo che il vero organo legislativo dell'Unione Europea non è il Parlamento, perché poi è la Commissione Europea, che è quindi insieme un governo e un organo legislativo che poi veramente può fare delle iniziative. Perciò il Parlamento ha fatto pressione, fa pressione sulla Commissione Europea, che, scrive la Huffington Post, ha risposto con questo Youth Employment Initiative, che ha un budget di 6 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 per appunto incentivare l'occupazione delle persone che hanno meno di 25 anni. Ci sono questa Youth Employment Initiative è stata approvata il 22 aprile e adesso si spera appunto che trovi anche poi una sponda in tutti i governi, perché poi sapete che anche in questo caso la Commissione Europea, governo dell'Unione Europea 27, approva delle leggi, ma poi anche i governi dei singoli paesi devono avere il loro ruolo. E passiamo vi suggerisco, non so se l'avete o se lo potete recuperare, se no io cercherò di un po' riassumervelo, però La Stampa, che è forse tra i giornali italiani uno dei più attenti ad avere uno sguardo sull'Unione Europea, vista anche dagli altri paesi, ha pubblicato questo inserto qualche giorno fa, che si chiama Europa. Il tema in questo caso era lo scetticismo, quello che è già stato ribattezzato euroscetticismo. Per esempio si riprende un articolo di El País dove si cerca di rispiegare la protesta vista dal punto portoghese, quindi queste dimostrazioni, queste manifestazioni di piazza organizzate contro il governo, ma anche contro la famosa troica, cioè composta in Unione Europea, soprattutto con questo ruolo esagerato che ha la Germania e secondo alcuni la Francia, con questo asse tra appunto Germania e Francia, che per molti è stato molto negativo. E in questo caso da El País riprende le dichiarazioni di Bruno Cabral, che è un produttore di documentari portoghese ed è uno degli indignados portoghesi, e che si è iscritto a questo collettivo che si chiama Que se lixe la Troika, cioè un po' va da quel paese, potremmo dire in un modo un po' gentile, la Troika. Ci sono state manifestazioni per lo più pacifiche, però soprattutto probabilmente per cercare di sensibilizzare chi magari ha più di 25 anni, quindi sente meno il problema del futuro rubato, diciamo così. Quindi molti degli indignados sono molto giovani, ma desiderano molto creare un ponte generazionale ed evitare così anche quel problema che si sta verificando anche in Italia, del conflitto generazionale, invece, dove i giovani sentono che i meno giovani, che poi magari per meno giovani si intendono anche le persone di 50 anni, che hanno ancora invece, secondo le aspettative di vita moderne, contemporanee, molti anni davanti, però li vedono come dei nemici, perché appunto c'è spazio o per una generazione o per l'altra. Questo è sbagliato, deve esserci spazio per tutte le generazioni e che devono anche potersi parlare. Vi segnalo sempre da questa overview che fa La Stampa delle posizioni dei vari quotidiani, parlavamo prima della Polonia, della Gazzetta, che è appunto un giornale polacco, e qui l'opinione è quella di Paulina Beznawarz-Kuczewska, che ha tre figlie, fa l'insegnante, e che spiega quale sia la sua delusione tutto sommato nel marasma che c'è, quello che lei chiama il marasma intellettuale dell'Unione Europea, perché come tanti altri, lei forse appunto anche per il mestiere che fa, aveva grandi aspettative su quanto questa Unione Europea, che riunisce un continente che nel secolo scorso ha visto ben due sanguinosissimi conflitti mondiali, però focalizzati, che hanno avuto il loro baricentro sicuramente in Europa. Quindi l'idea dell'Unione Europea sembrava appunto le magnifiche sorti e progressive dell'Unione Europea, e sappiamo che poi in molti casi non è stato così. Conclude la signora Paulina, che viene definita smarrita, l'Europa ha cessato di essere fonte di modelli culturali per il resto del mondo, e soprattutto così magari aumentano anche i conflitti interni, perché manca appunto l'apertura mentale. Purtroppo anche questa settimana io speravo di segnalarvi molto di più e poi invece il tempo corre, il tempo tempus fugit, e quindi per questa settimana abbiamo finito. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa in collaborazione con Euronet Plus.